Buon pomeriggio, 14, 2 minuti primi, giovedì 30 aprile del 2009, siamo su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza, l'appuntamento consueto con il cinema, come ogni giovedì questa è Visionari. Per contattarci il fax 0644636116 e la mail visionari@ondarossa.info. Abbiamo ospiti in studio quest'oggi, ma anche al telefono. Cominciamo subito con un film che è già in programmazione, quindi rimanete in ascolto e in tempo per il collegamento. Buon pomeriggio a Massimo Venier, regista di Generazione 1000 Euro. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come sì, va? Purtroppo io generazione un po' più vecchia, devo dire, ahimè. Non tanto, però un po'. Ma con cognizione di causa? Sulla generazione dei trentenni di oggi, la posso chiamare così e non Generazione 1000 Euro? Ormai la promozione è finita, posso uscire da questa cosa? Ok, va benissimo. Sì, abbastanza vicino, perché vabbè, io ho 40 anni, non ne ho così tanti, e soprattutto vivo qui, conosco un sacco di persone che vivono questa realtà, e tra l'altro la si vive serenamente anche oltre i 40 anni. Serenamente, ovviamente, è un modo di dire. Allora, tutto partiva da un libro che ha avuto una diffusione online per poi essere stampato e distribuito, no? Sì, esattamente, è un libro che io non conoscevo, perché in realtà è stata molto una cosa di internet e dei blog. Però i produttori del film, che sono Andrea e Raffaella Leone, anzi Raffaella e Andrea Leone, lo hanno letto, ci hanno visto una cosa interessante, mi hanno chiesto di trasformarlo in un film, perché il libro non era adatto, diciamo così, non raccontava tanto una storia con la struttura narrativa che è necessaria in un film, però aveva un tema, uno spunto, un'ambientazione che insomma ci piaceva e ci interessava, e così l'abbiamo fatto. Allora, tu vieni da Jalappas Band, Aldo, Giovanni e Giacomo, sì. Ale Franz, come mai questo scarto ora? Perché c'è una, Woody Allen ha detto che a 60 anni a un certo punto fare le cose che si facevano a 30, specialmente se fai il comico, rischia di diventare ridicolo. Allora, prima di arrivare ai 60 sto cercando di spostare leggermente il tiro, no? In realtà la verità è che si tratta di raccontare delle storie, e questa è la cosa che mi piace. Farlo con i comici, e quindi giocando su certe corde, o invece con attori più tradizionali, giocando su altre, è una cosa che mi piace in assoluto e indipendentemente, quindi per me non ci sono grandissime differenze. Mm-hmm. A proposito, ecco, degli attori, come è avvenuta la scelta del cast? Come dovrebbe avvenire sempre, cioè scegliendo gli attori che ti piacciono di più e che sono più adatti ai personaggi che hai scritto. E questa è stata la stella polare, e per farlo ci vogliono dei produttori che ti consentono di farlo, anzi che ti aiutano a farlo addirittura, e una distribuzione in questo caso che non ha impedito di fare alcuna scelta, nel senso che ci hanno lasciato ampia libertà, pur con l'attenzione di chi vuole sapere perché si fanno delle scelte, ma ci hanno lasciato, non ci hanno obbligato a scegliere nessuno, e questo secondo me è una cosa insomma rara e positiva. Senti, una cosa che ho constatato nel film è l'apatia, l'accettazione che contraddistingue questa generazione rispetto ad un dato di fatto, cioè a un precariato che a partire dal lavoro poi investe tutta la vita. Riguardo a questo aspetto fondamentale, nasce da una documentazione che non so, da quello che ho sentito in conferenza stampa, insomma, vi siete informati anche, avete frequentato blog? Nasce soprattutto dalla realtà, dall'osservazione della realtà, per quanto ovviamente parziale, no? Sì. Però qui, insomma, io ho la possibilità di osservare il fenomeno abbastanza da vicino e di viverlo anche parzialmente, se non altro per le persone che mi stanno vicino, e quindi lo conosco molto bene. E questo aspetto è un aspetto che mi ha colpito, è l'aspetto emotivo, e quindi su cui ho voluto un po' impostare la narrazione, i personaggi, che mi ha colpito di più e che mi colpisce di più e che mi dispiace di più. È il punto di partenza della storia, perché lo considero un dato di fatto, così come a me sembra che la maggior parte dei giovani, che magari non sono quelli che protestano sui blog, ma sono la maggioranza silenziosa, come si diceva ai nostri tempi, tendono ad accettare e a dare per scontato. Danno per scontato il precariato, danno per scontato il nepotismo, danno per scontate le ingiustizie, sostanzialmente, perché ci sono nati e sanno che è così. E questo aspetto è la cosa che davvero mi ha colpito di più, la capisco, però mi dispiace, quasi mi ferisce. Ed è per quello che il film parte con questo tipo di atteggiamento da parte del protagonista principale, per poi modificarsi durante la storia. Oh, ma anche la scelta finale di una parte rispetto all'altra, di uno stile di vita, che poi, con tutto quello che poi comporta, rispetto a un altro, viaggia un po' sull'arte di arrangiarsi poi alla fine, perché poi una soluzione si troverà sempre. Come hai pensato? Io non sono per niente d'accordo, so che qualcuno lo ha notato, ma sicuramente se arriva questo è un mio errore, nel senso che non era assolutamente l'intenzione. No, credo però che ci sia un po' di volercela vedere questa intenzione, perché in realtà il film, appunto, vorrebbe, e secondo me ci riesce, a raccontare un personaggio che parte rassegnato, parte spento, parte per uno che non desidera, per evitare le delusioni, ed è quello che secondo me in gran parte succede, per poi, attraverso una serie di incontri e di eventi, come succede nei film, perché poi è bello anche che le storie si dipanino in maniera possibilmente così piacevole e divertente, cambia e fa delle scelte. Sì. Ed è già il fare una scelta anziché subirla, il grande cambiamento, e quindi un messaggio che mi sembra tutt'altro che l'invito alla rassegnazione e all'arte di arrangiarsi, ma anzi è quella di scegliere chi si è e cosa si vuole anziché subirlo. Poi lui sceglie una cosa anziché un'altra, personalmente mi piaceva che scegliesse la cosa che gli appartiene e non quella che gli conviene. Certo. Per carità, va benissimo anche scegliere la convenienza se è quello che uno vuole, se è quello che uno desidera. L'importante è desiderare qualcosa, cercarlo e scegliere in funzione di questo desiderio e non di altri, soprattutto non subire le scelte di altri. Questo vuole raccontare il film, e non mi sembra quindi che inviti né alla rassegnazione né all'ottimismo berlusconiano, per intenderci, e né all'arte di arrangiarsi e a quel qualcosa ci inventiamo che il protagonista dice alla fine. Sì, esatto. È un modo per diventare finalmente ottimista rispetto al suo pessimismo con cui, insomma, ha vissuto tutto il film, non è nient'altro che questo. Senti Massimo, come è stato accolto? Com'è andata per esempio il primo weekend? Ma è andato abbastanza bene, purtroppo abbiamo avuto, da quello che mi dicono, perché io me ne intendo poco, un weekend clamorosamente, globalmente più basso come presenze rispetto a quello precedente, nel senso che il primo era, il weekend precedente ha incassato globalmente mi sembra 9 milioni di euro, e questo 5 o anche meno forse, quindi abbiamo subito un pochino questa flessione in generale delle presenze, però insomma il film è stato quinto nel weekend, poi adesso è stato terzo, secondo in questi giorni, si sta difendendo bene e soprattutto piace al pubblico, e questa è la cosa a cui io, come sempre, tengo di più, al di là dei numeri che comunque sono, sicuramente sono buoni. Ecco, proprio in proposito, che tipo di ritorno c'è stato da parte proprio del pubblico interessato che è toccato? Ma anche qui devo dire che la maggior parte delle persone poi sai, è difficilissimo testare il gradimento delle persone perché non le posso intervistare o spiare una ad una, però ho assistito a un po' di proiezioni e poi ho delle persone, degli amici che mi raccontano, insomma, sembra che ci sia il gradimento di una storia che è leggera, vuole essere leggera, però che vuole anche così semplicemente raccontare, e soprattutto con grande rispetto da una parte e affetto dall'altra, un gruppo di persone, una generazione, un problema, chiamiamolo come vogliamo, e che viene presa quindi per quello che è e quindi con molto gradimento. Poi magari qualcuno può desiderare un approccio al problema più cattivo, più di protesta, e sicuramente anche questo è più che legittimo, anzi è meritorio, e sicuramente ci sono dei film che lo fanno o che lo faranno, e quindi insomma va benissimo così. Va benissimo. Va bene Massimo, allora spero di averti presto di nuovo qui e in bocca al lupo. Anche a voi, grazie mille. Ciao, un abbraccio. Ciao. Allora era Massimo Venier, regista del film Generazione 1000 euro. Allora arriviamo alla diretta in studio. Massimo, che dici? Allora, microfono. Sì, diciamo. Intanto benvenuto. Grazie, questo ritorno in studio restituisce un po' di umanità alla... Sai, è meglio stare in studio, no? Che le voci da casa. Ok, eccoci qua. Come va intanto? Diciamo va bene, abbiamo rischiato di non esserci, ma ci siamo. Come dire, va bene, sì. Ok, sì. Senti, ottava edizione Tech Festival ai confini del mondo dentro l'Occidente, quest'anno cambiate luogo, sì, però sempre la città, però in due luoghi differenti. Sì, diciamo quest'anno abbandoniamo il centro, sì, che era ovviamente una scelta voluta nel corso degli anni, e approdiamo però insomma all'interno del quartiere dove il Tech Festival vive, l'ufficio al Pigneto, e quest'anno appunto il festival si svolgerà nelle tre sale del nuovo cinema Aquila dal 7 all'11 maggio. Poi in virtù di questa collaborazione di cui sai, perché ne abbiamo parlato spessissimo durante questi ultimi tre anni, con l'associazione culturale Semi in Testa e con il festival di cortometraggi che loro organizzano e Frammenti, questa festa a settembre, e... Vai, è un errore mio. Sì. Aspettiamo. Dicevo, in virtù appunto di questa collaborazione abbiamo avuto e sentito la necessità di un coinvolgimento maggiore, quindi all'interno proprio dell'organizzazione del festival, che si sdoppia nei due giorni finali, il 12 e il 13 maggio. Ci saranno due giorni di proiezione al Centro Culturale Spazio Zip di Frascati, sì, che è la sede appunto dell'Associazione Culturale Semi in Testa, che ha diciamo all'ordine del giorno una serie di iniziative, sono veramente, fanno tantissime cose, e questa cosa ci fa ovviamente molto piacere, perché è proprio l'espressione massima di una relazione che nel corso degli anni si solidifica sempre di più e dà origine appunto a qualcosa di più sostanza, come dire. Mi dicevi, nonostante le premesse iniziali, cioè qualche titubanza rispetto alla partenza, invece mi dici che insomma il cartellone è ben nutrito quest'anno. Sì, insomma, ovviamente noi abbiamo avuto a che fare diciamo, tu sai che l'esistenza e il budget del festival si è sempre basato, diciamo, prima di tutto su una ricerca etica, anche se questo può suonare un po' demodé, di quelli che sono gli sponsor privati, e una sorta appunto di collaborazione richiesta da alcune istituzioni in virtù del fatto che noi appunto consideriamo anche questi finanziamenti pubblici delle varie situazioni cittadine, regionali o della provincia quasi una sorta di riappropriazione di denaro pubblico. E l'altra cosa che ci ha sempre contraddistinto è che ogni finanziamento che abbiamo chiesto è sempre stato motivato dalla presentazione di un progetto che portasse realmente qualcosa nella città come evento. E diciamo, non siamo i soli a aver subito quest'anno un taglio netto, anzi forse andrebbero ricordati i tanti festival di cinema che sono spariti, le attività culturali o le associazioni culturali che in virtù di questa mancanza di non solo di fondi dal punto di vista economico ma anche di sostegno sono assolutamente spariti. E quindi quest'anno per esempio l'amministrazione comunale, che ha deciso di mettere la maggior parte dei suoi soldi su iniziative come il Natale di Roma e la Pasqua, avevano già dato, proprio perché queste dichiarazioni sono avvenute in tempi non recenti ma insomma molti subito dopo l'insediamento della nuova amministrazione di destra, diciamo, avevano già un po', tutti eravamo appunto convinti che ci fosse stato un abbandono dal punto di vista della proposta culturale della città. Apparentemente qualcuno può credere che in tempi ovviamente difficili come questi la questione culturale possa essere relegata a posizioni più indietro in classifica, mentre invece noi siamo assolutamente convinti che lo sforzo andrebbe anche comunque nei limiti del possibile, facendo un paragone con le difficoltà economiche del vivere, del quotidiano, della mancanza di lavoro, che invece la cultura fosse appunto sostenuta e non solo economicamente ma anche con tutta una serie di attenzioni. Questo non è stato, e il festival è stato uno dei tanti a subire le conseguenze di questo, quindi grandi dubbi, grandi appunto perplessità anche su questa far continuamente riferimento a un lavoro no profit di tutte le persone, che sono tante, che lavorano all'organizzazione del Tech Festival, alcune di loro molte per un anno, e quindi però insomma come dire, molto tempo fa avevamo detto insieme a te che puoi anche decidere di suicidarti da solo, ma quando poi qualcuno pensa di ucciderti esce fuori invece tutta una decisione a voler continuare a portare avanti questo progetto, perché e quindi così insomma su questo ci siamo avviati. E ovviamente poi ne è uscito fuori un programma assolutamente sostenuto, con alcune rinunce va detto, perché abbiamo dovuto rinunciare per esempio al concorso internazionale, che è quello che economicamente ci costava di più come ospitalità, come sottotitolatura, ma nel suo mosaico generale invece abbiamo appunto, nonostante le grandi difficoltà, prestato molta attenzione a mantenere un livello di qualità alto, perché questo, la grande frequentazione del pubblico e la storia del Tech Festival un po' lo impone, e per noi è una imposizione del tutto gradevole. Senti Massimo, per chi ci ascolta e magari non ha avuto mai occasione di frequentarvi, quali sono le caratteristiche portanti di un festival come il vostro? Intanto diciamo una concezione del cinema diverso all'interno dell'organizzazione, e l'aver tramutato questo non come un limite ma come una ricchezza. Quindi il festival, oltre a proporsi dal momento anche della sua nascita di offrire una finestra di più ai tanti lavori documentari italiani che spesso non hanno queste possibilità, diciamo oggi come oggi dà luogo a un cartellone, a delle relazioni internazionali appunto che ne fanno un momento di interesse particolare. Ovviamente non è una diciamo cattiva interpretazione del lavoro degli altri, ma se vieni ad assistere alle proiezioni del Tech Festival hai sicuramente la possibilità di vedere del materiale non visto. La struttura è quella solida, una divisione per sezioni finestre tematiche, che danno origine appunto anche quest'anno a 9 sezioni, magari composte da meno film, di cui alcune storiche continuano ad essere nel programma del Tech Festival, ed alcune nuove che sono quelle che derivano appunto da uno sguardo attuale, reale, di quello che ci circonda nell'anno precedente, che precede appunto l'edizione del festival, che è l'elemento di ricerca su cui si soffermano tutte le persone che dell'organizzazione vanno in giro per cercare film appunto su un'idea precostituita. Una di queste sezioni è appunto la decisione, nonostante sapevamo che fosse un qualcosa che avremmo visto manifestarsi in tante occasioni, questa piccola rassegna cinematografica in occasione del ventennale della caduta del muro, che abbiamo chiamato 1989-2009 la memoria del presente e la visione, che è realizzata che ci consente di realizzare, di ancora di rendere più forte la collaborazione col Goethe Institute, che proporrà 5 film tratti appunto da una cinematografia che interviene sul muro, che parla sul muro, con alcuni classici della drammaturgia internazionale. I film sono Gotra Bigo, Der Rote Kakadu, Il Pappagallo Rosso e Vi Foglia un Flamme. Mentre invece proiettiamo anche 2 lavori di Gerd Conrad, che fra l'altro stamattina Il Manifesto dedica appunto una serie di riflessioni su questo materiale tedesco che sta girando, in questo caso facendo riferimento al Torino GLBT Film Festival di Torino. Queste cartoline dall'est e dall'ovest, un altro film che si chiama Inside, Ein Blick, di Gerd Conrad, che è un regista importante, di cui viene sempre ripetuta questa frase famosa, che il cinema, secondo Gerd Conrad, abbatte tutti i muri semplicemente perché va oltre e sempre. E l'altro film, che è uno degli eventi speciali, è questo film che ha fatto molto parlare, che è stato uno dei film evento nell'ultima Berlinale, che è Ein Traum in Erbfolie di Mark Wilms, che si rifà appunto a questo gruppo di giovani che nella DDR lavoravano appunto alla moda, al design, con una serie di materiali di scarto, insomma facevano vestiti con i teloni di plastica con cui venivano ricoperti i campi di grano, e che testimoniano appunto anche di un mondo che all'interno della DDR viveva, e che appunto di cui proprio questa rassegna intende mostrare alcuni aspetti non molto conosciuti. Questa, diciamo, è una delle cose nuove. Per l'altro, concorso italiano, 10 titoli fra oltre 300 arrivati in selezione, poi Pericolosamente ad Est, i film dell'est europeo, la rassegna di cinema delle donne, che quest'anno è dedicata a una scrittrice femminista famosa che si chiama Elke Sander, di cui proponiamo 3 film. Ovviamente sia Marco Wilms sia Elke Sander saranno ospiti del Tech Festival e saranno assolutamente presenti in sala per poter discutere, presentare i loro film, interagire con gli spettatori e le spettatrici, che pensiamo e speriamo siano tantissimi. Poi quest'anno c'è un'ulteriore opportunità per chi fruisce del festival, nel senso sono previste più repliche rispetto, sbaglio? Sì, avendo diminuito anche non di molto, perché poi i film di quest'anno sono 82, avevamo proposto 50 film, ma poi questa nostra follia, anche se molti sono cortometraggi, avendo a disposizione le 3 sale del Cinema Aquila, possiamo finalmente fare un po' più repliche di quelle che normalmente non abbiamo fatto nel corso degli anni, che consentono anche a chi dovesse mancare o bucare le prime proiezioni di ripresentarsi poi nei giorni successivi. Apriamo con la cosa che non voglio dimenticare, è che il 16 aprile è morto Armando Ceste, che è stato uno dei documentaristi più importanti della scena del documentario italiano, creatore del Valsusa Film Festival, organizzatore del collettivo Senza Fiato insieme a Luca Pastore, nell'aver seguito le varie lotte della fabbrica in Fiat, che è, appunto, cioè, se n'è andato il 16 aprile. Il Tech Festival è nato un po' con i documentari di Armando, che nel corso da sempre, nei primi anni, ha sempre proiettato i suoi lavori qui a Roma, e a cui dedichiamo non solo il catalogo dell'edizione di quest'anno, ma anche una breve presentazione del suo ultimo film, che si chiama Movimento, che sarà proiettato, un cortometraggio di 5 minuti che proietteremo giovedì dopo la presentazione ufficiale alle ore 20 in sala 1 del Cinema L'Aquila, e film che sarà preceduto poi dall'anteprima del nuovo film di Maria Martinelli e Simona Cocozza, che è Over the Rainbow, la storia di 2 donne lesbiche che decidono di avere un figlio, la questione della genitorialità, di cui tratteremo appunto il film tratta. Senti Massimo, per chiudere diamo nuovamente i riferimenti, giorni, luogo e anche il sito per consultare il programma. Assolutamente, diciamo intanto che tu ci hai offerto un altro spazio che sarà telefonico giovedì prossimo, appunto per fare certo, un po' il punto della situazione e rinnovare anche l'invito a partecipare. Ho dimenticato tante cose, fra cui l'anteprima del film My Marlon and Brando, gli eventi speciali degli altri, ma recupereremo magari quello che non abbiamo fatto oggi nella prossima settimana. Sì. Se permetti, volevo segnalare soltanto 2 cose, che negli eventi collaterali diciamo, la prima è la presentazione del pre-festival che teniamo il 6, il giorno prima, alle 21 ad Officine, dove presentiamo appunto il trailer del film Over the Rainbow, e poi una la presentazione del video Marica TV, meglio Froci che Fascisti, e a seguire La Vita Loca, che riporta sul palcoscenico un vecchio, diciamo, DJ di questa radio, che è il sonero del barrio, Arias Bubu, che terrà in compagnia chi parteciperà a questa iniziativa. E le altre due cose che volevo dire: Wall Action, questa mostra di manifesti di Teresa Sdralevich, Agire dal Muro, che si terrà nei giorni del festival dal 7 all'11, con ingresso dalle 18 alle 20:30 presso lo spazio dell'ex Serono, che è la ex fabbrica farmaceutica sull'isola pedonale del Pigneto, a via del Pigneto 22. E l'ultima cosa, all'interno del foyer del nuovo cinema Aquila, l'installazione videocabine di Cesar Meneghetti. Quindi gli appuntamenti sono giovedì, vi aspettiamo tutti. Anche la particolare natura delle difficoltà fa sì che quest'anno abbiamo ancora più bisogno di tutte e tutti voi che ascoltate la radio, e sicuramente potrete godere di buone visioni e calda accoglienza. Il sito www.techfestival.it, e per altre cose ci sentiamo giovedì prossimo. E grazie per l'ospitalità. Grazie di essere stato qui, Massimo. Ciao. Allora, passiamo subito agli altri due ospiti, che vengono da zona rischio. Intanto, buon pomeriggio, grazie di essere qui. Buon pomeriggio a tutti. Come va? Bene, bene. Allora, si parla di un'iniziativa che si terrà oggi. Sì, questa sera a partire dalle 20 cercheremo di iniziare più vicino anche al cercheremo di iniziare puntuali, perché il programma è vario. L'iniziativa è incentrata sul film Beautiful Country. Riproponiamo questo documentario, insomma, per tornare un po' sulla tematica dell'impatto ambientale dello smaltimento dei rifiuti nella società industriale. Sì. È un documentario uscito un paio di anni fa, mi pare. È molto duro, sul territorio di Acerra è stato girato, e fotografa un po' il disastro ambientale che è stato prodotto da diversi fattori. Da un lato l'attività delle cosiddette ecomafie, della Camorra, che hanno attivato questo business più che dello smaltimento, dell'occultamento dei rifiuti sul territorio, quindi producendo un avvelenamento delle falde del terreno, insomma, che ha prodotto gravissimi danni, insieme al, diciamo, una mala gestione, direi quasi eufemisticamente, da parte dello Stato, che da 15 anni in emergenza è commissariata, diciamo, la gestione dei rifiuti nella regione Campania, e a fronte di questa emergenza costruisce impianti di smaltimento che non sono nemmeno a norma con le proprie leggi, con le proprie regole. Quindi un combinarsi di fattori che ha prodotto questo disastro ambientale molto grave. Allora, oltre al film, saranno presenti anche i registi. Sì. Del documentario Beautiful Country. Se non ricordo male, se non mi sbaglio, l'iniziativa prevede anche la partecipazione di altri movimenti che lottano contro la costruzione dei termovalorizzatori. Sì, sì, è presente la regista Esmeralda Calabria e uno degli autori, Peppe Ruggero. Sì. Peppe Ruggero, che tra l'altro è l'autore ogni anno del rapporto sulle ecomafie per Legambiente, diciamolo, insomma. Sì, quindi ospiti anche di un certo livello. Sì, sì. E oltre a loro abbiamo voluto un attimo ampliare il discorso, riportandoci un po', diciamo, alla situazione che si è creata anche nella nostra regione, perché periodicamente arrivano notizie, diciamo così, un po' inquietanti, per esempio sull'esaurimento della discarica di Malagrotta, sull'attività dell'inceneritore di Colleferro, insomma. Quindi abbiamo deciso di rapportarci anche con quei movimenti, quelle associazioni che si occupano sul territorio del Lazio del problema dello smaltimento dei rifiuti. Quindi sarà l'SDL dell'AMA, il Comitato contro l'inceneritore di Albano e la Rete Rifiuti del Lazio, questi sicuramente, okay. Forse anche qualcun altro. Speriamo. Senti, per saperne di più, intanto diciamo l'indirizzo, l'orario, sì. E anche se c'è un riferimento internet. Sì, l'indirizzo è via di Pietralatella, senza numero civico, nel senso che è una vietta. Che parte da via di Casa Albertone, molto piccolina, insomma, a casa Albertone, comunque, sì. Vicino a Piazza Santa Maria Liberatrice. Si parte dalle ore 20, cercheremo, ripeto, di essere puntuali, perché il programma è vario e comprende, mi ero scordato, anche il concerto dei Gamers in Exile, che è il gruppo che ha composto e suonato la colonna sonora del film. Quindi fanno, certo. Questa musica elettronica fatta poi con strumenti autocostruiti, quindi anche molto divertente, sì. E, riferimento internet autistici.org/zona rischio. Benissimo. Abbiamo la nostra pagina. Benissimo. Dove ci sono tutte le indicazioni. Ok. Quindi vi aspettiamo questa sera, speriamo di essere numerosi, perché l'iniziativa credo che meriti, interessante. Sì. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Allora passiamo ai nostri ospiti, questa volta telefonici, un attimo di pazienza, intanto vi ricordo, questo è Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.900 modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, la scaletta con tutte le informazioni potete trovarla sul sito della radio, ossia www.ondarossa.info. Insomma, abbiamo in collegamento Patrizia Salvatori, regista del documentario Allegro Moderato. Pronto, ci sei? Ciao, eccomi. Eccola qui. Ciao a tutti. Buon pomeriggio, cara. Sento male, però. Io ti sento bene. Forse. Va bene, allora aguzzo l'orecchio. Allora, un documentario, ecco. Per chi ci ascolta, racconta un po' di cosa si tratta. Allora, è un documentario sulla musica, quindi magari vi può interessare, visto che siete una radio. Una musica però suonata in modo abbastanza particolare, da un'orchestra sinfonica milanese che si chiama Esagramma, ed è formata da ragazzi, per metà da ragazzi con disabilità mentali, psichiche, quindi ragazzi down, autistici e con altre problematiche. Mm-hmm. E l'altra metà invece sono educatori, musicisti, professionisti. Allora ti chiedo intanto subito come è nato il progetto del documentario. Pronto? Mi senti? Pronto? Ecco, adesso ti sento. Ok, dicevo, intanto ti chiedo subito com'è nato il progetto del documentario. Federico, mi dispiace ma non sento nulla. Provo a richiamarti. Ecco, adesso sì. Ti sento a tratti, possiamo fare un concerto così. Allora, mi senti adesso? Ecco, sì. Allora, ti chiedo com'è nato intanto il progetto del documentario. Dunque, credo di aver capito che mi hai chiesto come è nato il documentario, giusto? La genesi, insomma, come esatto. Com'è nata l'idea? Allora, sempre per una cosa che vi può interessare, tutto è nato, diciamo che lo stimolo a fare un documentario del genere sulla musica suonata da chi ha un linguaggio diverso dal nostro è nato da un videoclip che forse conoscete, dei Sigur Rós. Adesso il nome della canzone non me la ricordo, non riesco mai a pronunciarla, perché tutte essendo islandesi. Era un videoclip molto bello, dove c'erano dei ragazzi down, vestiti di angioletti, in una ballata. era tutto rallentatore, diciamo che è un videoclip che mi ha emozionato in modo particolare. Da lì ho detto, beh, sarebbe bello fare qualcosa del genere. Dopodiché, dopo un po' di tempo, ho letto su Didi Repubblica un articolo che parlava dell'orchestra di Gamma. Ho detto, ecco, ci siamo. Senti, a questo punto ti chiedo dell'orchestra milanese, come funziona e da quanto tempo è in funzione? Scusa Federico, non ti sento. L'orchestra, ti volevo... No, ti sento a momenti. Senti, proviamo ti provo a richiamare, che dici? No, credo che sia un problema di contatti, credo tu, della radio, perché a momenti ti sento benissimo, in altri momenti no. Non capisco. Va ecco, bene. Adesso sì. Adesso sì. Ti sento benissimo, oh. Fermo. Stai fermo. Così. Allora, ti chiedo rispetto all'orchestra. Sì. Da quanto tempo funziona e con quali modalità? Allora, l'orchestra in realtà è una scuola di musicoterapia orchestrale. Sì. C'è da qualche decennio. E anche se il corso di musicoterapia in sé, come si viene svolto adesso, è più recente. In pratica vengono i ragazzi fanno per 3 anni delle lezioni di gruppo, sì. Dei gruppi in cui gli viene insegnato come procedere allo strumento, dopodiché passati 3 anni ognuno di loro segue delle lezioni individuali, proprio come musicisti veri e propri, dove affina le proprie capacità, e poi una volta a settimana hanno la prova d'orchestra, la prova generale d'orchestra. Questo è un po' il funzionamento, la meccanica. Poi in tutto questo ci sono psicologi, musicisti professionisti che frequentano la scuola e partecipano comunque all'orchestra, e anche educatori, appunto, che pur avendo competenze da terapeuti sanno suonare anche gli strumenti. Quindi diciamo che è un ensemble molto, molto variegato, insomma, come composizione, sì. Anche per questo è bello sicuramente. Senti, approcciando a questo mondo, volevo chiederti, l'utilizzo, l'imparare a suonare uno strumento, il suonarlo, ha delle influenze positive su di loro? E poi volevo chiederti, la musica in un caso come questo in particolare aiuta a superare le barriere? Allora, l'approccio musicale è abbastanza particolare per tutti noi, no? Quando sì, iniziamo sì. A conoscere uno strumento, per loro è un modo ancora più particolare, perché magari non è che guardano la televisione, le fotografie, internet e vedono come si impugna un violino. Quindi diciamo che nell'approccio vero proprio fisico magari ci sono delle cose abbastanza bizzarre. Per quanto riguarda la capacità della musica di comunicare, di unire, il documentario vuole raccontare proprio questo. Ora, voi che siete davanti della musica come me, sapete che un concerto è esaltante, no? Sì. È molto meglio che ascoltare un disco, perché c'è un'energia in circolo che riguarda non soltanto il cantante, il gruppo, ma anche le persone che ascoltano. Quindi c'è una trasmissione di comunicazione che va e viene tra il pubblico e musicista, che secondo me è energia pura fondamentalmente. Quindi diciamo che questo circolare di emozioni, di comunicazione tra i ragazzi ha fatto sì che il documentario poi fosse, avesse la struttura, insomma, che ha, abbastanza energetico. Voglio dire, comunque è un documentario molto positivo, ma non ottuso, perché comunque i problemi ci sono. Certo. Voglio dire, stiamo parlando di persone che hanno un linguaggio diverso dal nostro, però anche che fanno una vita più complicata. Questo lo sanno soprattutto i genitori, più che i ragazzi, no? Patrizia, in conclusione volevo chiederti, sarà possibile vederlo su grande schermo prossimamente? E poi se c'è qualche riferimento internet per saperne di più? Allora, prima di ricevere l'Oscar non so se riusciremo a proiettarlo al cinema a breve. In ogni caso diciamo che siamo stati selezionati come unico documentario italiano al Milano International Film Festival, che ci sarà dall'11 maggio. Sì. E siamo insieme ad altri 7 documentari, quindi speriamo che le cose vadano bene, anche perché questo vuol dire far circolare la voce sull'esistenza di questo documentario. Noi l'abbiamo già proiettato a Roma un paio di volte, devo dire che è stato un grande successo, insomma, sì. Grazie al passaparola. Ora speriamo di trovare una distribuzione che magari ci consenta anche di fare dei DVD da distribuire, però insomma diciamo che è una situazione tutta in divenire. Sì. E su internet? Ah, su internet fondamentale, sì. C'è il sito che si chiama www.allegromoderato.it ed è il nostro punto di contatto con tutti coloro che sono interessati, insomma, al documentario. Vi potete iscrivere per essere avvertiti riguardo alle proiezioni. Poi trovate anche il trailer, quindi vedete anche Stefano Bollani, grande musicista, insomma, che ha partecipato al documentario. Ci sono tutte le informazioni sul documentario. Patrizia, in bocca al lupo, spero a presto. Crepi. Ciao, ciao. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Ciao. Patrizia Sant'Angeli, regista del documentario Allegro Moderato. Andiamo avanti. Dell'attivissimo Cineclub Alphaville con Patrizia Salvatori. Pronto? Ciao, ciao Federico, salve, buon pomeriggio a tutti. Pensa, abbiamo sentito poco fa, appena adesso, Patrizia Sant'Angeli, siamo quasi vicini di nome e di cognome. Praticamente siamo con il PS, che vuol dire anche tante altre cose. Assolutamente, assolutamente. Allora, il 1° maggio e poi rassegne, piccole rassegne, una su Truffaut e una su Bresson. Sì, posso dire subito del 1° maggio, mi farebbe molto piacere che anche questo divenisse un appuntamento piccolo, piccolo, piccolo del Cineclub Alphaville, dedicato appunto ai temi del lavoro. Bene. Noi domani sera alle 21 abbiamo così intitolato questa serata articolo 1, in riferimento appunto all'articolo della Costituzione sul lavoro e sulla nostra terra, insomma, che dovrebbe essere fondata su questo. E abbiamo selezionato due film per due passaggi proprio fondamentali secondo il mio punto di vista e secondo il punto di vista di Alphaville. Uno è legato agli anni 60 e al boom economico, e quindi abbiamo selezionato un film di Armando Olmi, Un seguito ideale del tempo si è fermato, che è Il posto, ed è un film davvero delizioso, nonostante poi la tematica del lavoro affronti ben altre situazioni più difficili, ma è delizioso anche nella storia d'amore che un po' sorregge il film, oltre le dinamiche, insomma, relegate o legate al mondo del lavoro in quel periodo e con quelle circostanze particolari. Sì. Poi l'altro è In questo mondo libero di Ken Loach, che vi posso dire di questo film, davvero, se non l'avete ancora visto venitelo a vedere, perché veramente è un film davvero di un grande regista contemporaneo, davvero illuminato, illuminante e serio, soprattutto serio, sì, e sobrio. Sì, durissimo, duro, durissimo, con una libertà però di pensiero, un'autonomia, sì, di, sì, pensiero, sì, vero, sì, Federico, sì, sì, che sinceramente pochi al mondo hanno. Io su Ken Loach non posso che, ogni tanto mi piacerebbe mandare film suoi, non sempre è possibile, però insomma mi fa piacere quando capita, ecco. Senti. E quindi noi festeggiamo il 1° maggio col cinema. Bene. Insomma, vediamo che succede, ecco. Bene. E poi passiamo alla Francia. La Francia, tu sai Federico che io sono una estimatrice del cinema d'Oltralpe, che sono un'appassionata di Jean Vigo e della Nouvelle Vague, e dunque quest'anno è chiaro che è il mio anno questo. Il 4 maggio, che era un lunedì del 1959, al Festival di Cannes venne premiato per la miglior regia il film Le 400 colpi, 400 colpi di François Truffaut, che dà inizio davvero alla Nouvelle Vague in Francia. noi non potevamo dimenticarcelo, e dunque il 4 maggio prossimo all'Alphaville alle 21:30 sarà possibile festeggiare appunto la nascita della Nouvelle Vague in Francia, che poi porta tante cose anche qui da noi, quindi la nascita degli autori, ecco, sì. E noi ce ne abbiamo avuti anche noi in Italia di grandi dall'epoca, e la festeggeremo con la proiezione restaurata in versione originale con i sottotitoli dei 400 colpi di François Truffaut, con alcune letture in particolare dalla biografia di François Truffaut di Alain de Beck e Serge Toubiana, e letture anche da una cosa nuovissima, un nuovo libro che sta uscendo in questi giorni, che si chiama appunto Il ragazzo salvato, in cui una sorta di autobiografia descrive l'importanza nella sua attività e nella sua formazione dei cineclub, e quindi Federico, bene, non potevamo che leggere questo, e bene. Poi ci saranno dei filmati su François Truffaut, su Jean-Pierre Léaud, e poi insomma lo festeggeremo, perché mi sembra davvero una tappa importante della storia del cinema europeo e non soltanto, ecco. Bresson invece? E che dire di Bresson? Bresson era nel mio cuore da tanto tempo. Quest'anno celebriamo i 10 anni dalla scomparsa. È morto nel 1999, il padre del minimalismo cinematografico. Io credo che sia uno dei più grandi autori che la storia del cinema ci ha concesso e ci concede di vedere quando ne abbiamo voglia. Ha fatto film che sono stati scuole per tutta una serie di registi successivi, non ultimo Tarkovsky, che abbiamo fatto vedere qualche tempo fa, ma anche tutti gli altri. Vi ricordo per esempio La Mouchette di Bresson, che noi faremo vedere, e vi ricordo che per esempio i fratelli Dardenne, i belgi Dardenne, che pure sono grandissimi autori, quando fecero Rosetta chiaramente si ispirarono per esempio alla Mouchette di Bresson, proprio un padre del cinema europeo, e non soltanto appunto. Noi faremo vedere una selezione di 8 film, perché non è facilissimo trovarli tutti. Alcuni giorni ci saranno 2 film, altri giorni ce ne sarà uno solo. È inutile che vi dica adesso quali sono i principali, perché no, tanto ci dici insomma il sito. Ci ricordi il sito con sì, dove sarà? Certo, www.cineclubalphaville.com per chi non è associato di Alphaville, e invece per chi è associato gli è già arrivata senz'altro la newsletter con appunto la programmazione. Sì, sì. Sono 8 film, non vi posso, cioè non si discute di un artista così grande, si va a guardare, secondo me si riguarda magari, no? Bene. Abbiamo selezionato le Dame di Bois de Boulogne, che in italiano è Perfidia, abbiamo selezionato Pickpocket, Diario di un ladro, Mouchette, ma tanti, veramente sono 8. O Hasard Baldassar, che è la famosa storia dell'asino, che davvero da quel momento in poi ha restituito dignità all'essere umano e anche agli esseri animali, insomma, con questo stile proprio molto asciutto. Lui ci teneva molto a dire che lo spettatore aveva una funzione importantissima, che era, che a me piace molto questa cosa tra l'altro, che era quella di essere comunque attivo e di arrivare lui stesso da solo, senza particolari come dire imboccate tra virgolette del regista, a comprendere appunto i temi fondamentali trattati, che nel suo caso uno su tutti era la mancanza di grazia del mondo contemporaneo dell'epoca. Dunque, senti, oggi che ne diciamo, non lo so. Sì. Forse sarà il caso di vederlo, sarà il caso di rivederlo tutti insieme. No, io mi auguro che così come Tarkovsky, che ti volevo dire agli ascoltatori, grazie anche insomma al fatto che ci sentiamo e ne parliamo e via discorrendo, ha avuto un grande successo, e quindi io mi auguro che anche per Bresson la sorte sia felice, insomma. Come al solito, Patrizia, buona visione e a presto. Federico, con l'invito a venirci a trovare quanto prima, io lo faccio proprio per radio, così prima o poi verrai. Io ti ringrazio gli ascoltatori dei Visionari, e a presto sentirci. Ah, ciao, un abbraccio. Buon primo maggio a tutti. A te, ciao. Ciao, ciao, ciao. Paolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Federico, a tutti gli ascoltatori anche di Radio Onda Rossa, visionari, come stai? Bene, bene, bene, bene, tu? Fantastico, tutto bene, tutto a posto, sì, sì, sì, sì, sì, io sto va sempre magnificamente, bene. Assolutamente sì. Va tutto bene, bene, attenzione. Allora, sì, sì, sì. Per le uscite di questo, anzi di oggi, perché escono oggi, domani è il primo maggio. Domani riposano. Domani si riposa tutti. Domani si riposa tutti, riposano anche chi deve far uscire film evidentemente e quindi si anticipa oggi, a parte no, in realtà no, due film escono domani. Il secondo capitolo sul Che. Sì. O esce quello anche oggi? Perché credo ci siano stati un po' di problemi sulla questione. Ah, non sapevo. Io sapevo che sarebbero usciti tutti oggi, meno Diario di una ninfomane, che è uscito ieri, se non sbaglio. Ah, giusto, giusto, giusto, giusto. Sì, sì, sì, no, hai ragione, hai ragione. Escono in realtà parecchi film. Io vorrei soffermarmi però su uno in particolare. Sì. Perché io personalmente almeno lo aspettavo da tempo e me l'ero perso alla Festa del Cinema di Roma, dove era stato presentato con il titolo inglese When a Man Comes Home, ed è Riunione di Famiglia, che è il nuovo film di Thomas Vinterberg, che molti ricorderanno per gli incubi che hanno avuto la notte 10 anni fa, quando appunto uscì il suo Festen, che era praticamente una sorta di manifesto del movimento Dogma 95, poi sì, reso, era pieno manifesto, sì, esattamente, reso celebre poi da Lars von Trier e dalle sue manie di sperimentalismo e sperimentazione cinematografica, insomma. Festen era un film tremendamente angosciante sulle ipocrisie e le disfunzioni di una famiglia. Io sinceramente dopo quell'esperienza tremo ogni volta che sento qualcuno picchiettare un cucchiaino su un bicchiere, perché è una cosa veramente allucinante. No? Sì, si prospettano annunci disastrosi poi. Esattamente, esattamente. Chissà che cosa esce fuori quando uno picchia un cucchiaino su un bicchiere, meglio non saperlo. E appunto torna sul luogo del delitto, perché ancora una volta una famiglia, appunto Riunione di Famiglia è il titolo italiano, con un sottotitolo francamente inopportuno, il lato comico di Festen. Ma devo dire anche, devo dire anche che secondo me, questo in partenza lo dico, non so cosa ne pensi tu, però secondo me non siamo ai livelli precedenti, però vai tranquillamente. No, siamo già d'accordo, però appunto il fatto del sottotitolo a me ha lasciato veramente sconcertato, e sono rimasto contento poi nel sentir dire che non era stata una cosa elaborata dal regista, ma appunto dobbiamo ancora una volta ringraziare i titolisti italiani per questo genere di operazioni. Perché di comico in realtà c'è ben poco anche in questo film. Non arriviamo alle punte di angoscia e di ansia che Festen suscitava, ma comunque c'è ancora una volta una situazione di una famiglia sui generis. Abbiamo un ragazzo, Sebastian, biondo, alto, bello, angelico, ingenuo, talmente ingenuo da soffrire di balbuzie da quando era bambino a causa di quello che è stato appunto il retaggio dei suoi genitori, un padre particolarmente corrotto per certi aspetti, insomma tradimenti ai danni della madre e un tentato suicidio, un presunto suicidio, almeno Sebastian cresce con la convinzione che il padre si sia suicidato, e una madre che dal canto suo si consola con sua zia. Lo zio Anna, come viene chiamato poi nel corso del film, proprio a sottolineare questa relazione omosessuale tra i due. Ovviamente Sebastian nasce un po' sballottato e diciamo con dei problemi appunto nel suo sviluppo, ma questo appunto a parte la balbuzia non gli impedisce comunque di crearsi una vita. È promesso sposo ad una donna bellissima con la quale però c'è un rapporto particolarmente freddo. Questo è un aspetto che non viene molto approfondito nel film, ma c'è diciamo una scena d'amore tentata, per così dire, in cui comunque si capisce che il rapporto tra i due non è che sia proprio idilliaco. Sì. E viene sconvolta questa sua apparente tranquillità dal ritorno in scena di una vecchia fiamma, insomma del suo primo amore sostanzialmente, che ovviamente sconvolgerà appunto tutte le sue poche certezze in realtà, finendo tra l'altro per piombarlo in un'ulteriore angoscia, in un'ulteriore ansia, ovvero la paura di diventare proprio come il tanto odiato padre. E quindi insomma, già parlandone così in termini anche abbastanza leggeri, si capisce che il film non è proprio questa passeggiata di salute come vorrebbe far presentare e presagire il sottotitolo. La simpatica rimpatriata. Esatto, ci ritroviamo tutti in allegria, che bello, festa di paese, perché poi appunto c'è tutta l'atmosfera è ambientata in questa festa di questa cittadina danese. Appunto in cui si svolgono la vicenda, in cui si svolge la vicenda. Tuttavia arriviamo a quello che anche tu accennavi prima, il film non è che convinca pienamente. Io sono rimasto abbastanza deluso, se devo usare un termine forte, perché non è né appunto il film angosciante, pesante, duro, insomma violento anche per certi aspetti come poteva essere Festen. Capace però appunto di lasciarti sconvolto. A me Festen, adesso scherzi a parte, ha lasciato un'amarezza e un dover pensare a quello che avevo visto per una settimana buona. Insomma, era un film particolarmente pesante da quel punto di vista. Sì. Ma pochi film riescono a suscitare queste reazioni in... Non lo so, io l'ho trovato veramente unico in per certi versi. Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo. Con una appunto poi un linguaggio particolarmente diretto e azzeccato alla tematica che trattava. Io non sono stato mai un grande fan di Dogma, però effettivamente quella messa in scena, quel tipo di rappresentazione, l'unità di tempo, luogo, spazio, insomma... era una cosa che ci voleva quello per me rimane il film veramente più azzeccato del Dogma 95. Anche perché poi vabbè, diciamo che Von Trier ha preso il Dogma 95 come un manifesto personale, ma poi ha fatto un po' come gli pareva nei film suoi, parliamoci chiaro, insomma. Qui non c'è appunto né quella rabbia né quel disgusto anche per certi aspetti, che però voleva sollevare e sollevava poi effettivamente degli interrogativi forti sull'istituzione familiare e sul suo disfacimento, né al contrario quello che magari io mi aspettavo da un film del genere, cioè una virata di quelle tematiche da un punto di vista più sul grottesco per certi aspetti. In realtà... ci sono degli intermezzi che potrebbero essere definiti da commedia degli equivoci all'interno di questo film, ma sono tutti piuttosto sganciati e sembrano messi lì a bella posta proprio per non calcare troppo la mano sulla tematica, che è comunque abbastanza angosciante. Non è un film particolarmente riuscito, non mi ha suscitato alcuna emozione, proprio al contrario di quello che aveva fatto Festen. E sebbene appunto sia un film che comunque parla di tematiche importanti, e ancora una volta ci siano dei momenti in cui Vinterberg riesce a scardinare determinati aspetti, a sottolineare i problemi legati ai segreti che si nascondono all'interno di una famiglia e alle idiosincrasie e ai conflitti che tendiamo a nascondere proprio per appunto amore familiare, per così dire. Lui invece non si fa grossi problemi a sbatterli in faccia allo spettatore. Qui proprio mancano questo genere di emozioni, e il film ne risente secondo me in modo abbastanza pesante. Veramente mi ha abbastanza deluso, sinceramente. Sì. Senti caro, poi c'è io tanto volevo sapere se hai visto C'è Guerriglia, e poi io ci terrei questa settimana in particolare a segnalare State of Play. Allora, per C'è Guerriglia posso venirti incontro, per State of Play purtroppo no, non l'ho visto. Quella è una mancanza a cui cercherò di rimediare proprio la prossima settimana, perché effettivamente ne sento parlare abbastanza bene. Questa è l'unica cosa che posso dire, ma non voglio influenzare nessuno, cioè, quindi magari parlane tu, però io insomma, io soltanto per sentito dire, insomma. Per C'è Guerriglia posso solo dire, guarda, per State of Play, per per il compito nobile che dovrebbe avere il giornalismo, ecco, chi ha quest'immagine del giornalismo dovrebbe vederlo quantomeno, ecco. Ah beh, certo, certo, sì, beh, la tematica forte comunque è quella. Io ho sempre un po' di paura quando poi gli americani mettono il becco su questi aspetti, però appunto poi sentirne parlar bene, però gli scandali sanno sempre farli esplodere, insomma. Esatto. Invece per Che Guerriglia, io confermo sostanzialmente, avevamo già parlato di Cella Argentino insieme, sì. E io posso dire che nonostante mi aspettassi per certi aspetti magari una maggiore enfasi anche retorica, se vogliamo, sul insomma, qui si affronta la morte del mito in questo episodio, la campagna in Bolivia del Che, quindi ancora una volta la guerriglia, ancora una volta Soderbergh ne rappresenta tutti gli aspetti più, tra virgolette, noiosi, ma che sono anche quelli più realistici, la sofferenza appunto dell'attesa più che appunto la furia della battaglia. Però appunto ci viene mostrato un Guevara ancora una volta umano e molto diverso dal mito che possiamo aver presenti, la consapevolezza, sì, che l'immagine che si ha di Ernesto Guevara nel resto del mondo, che è poi quella stampata sulle magliette e sulle bandiere sostanzialmente. E io ancora una volta devo fare i complimenti a Soderbergh per l'onestà, perché comunque c'è una discreta capacità di rappresentare una figura che da molti non è compresa sostanzialmente, c'è molta ignoranza intorno a questo, appunto forse non ha calcato la mano su un aspetto che poteva essere fatto, dato che si sta comunque parlando di un eroe che ha combattuto e con tutto quello che questo significa, sacrificando appunto quella che poteva essere la sua vita agiata e tranquilla, e si arriva appunto al climax finale della sua morte in questo caso, quindi si poteva un po' forse calcare la mano su quell'aspetto. Però io ammetto che l'operazione di Soderbergh nel complesso, appunto, c'è l'Argentina e c'è Guerriglia, mi ha abbastanza convinto, non ho nulla da imputargli di negativo. No. Poi, io però devo dire che sono più legato alla prima parte, questa seconda, sì, parte l'ho vissuta veramente come una goccia cinese, nel senso molto cronachistico, poca dialettica politica come invece era emersa nella prima parte, no? Con gli scambi sia con i guerriglieri che erano al suo fianco, sia con i contadini che incontravano di volta in volta. Qui è molto più secco, molto più cronachistico e angosciante. Sì, sì, questo aspetto è vero, nel senso che comunque c'è molta attenzione a riportare i fatti, sì, appunto non si avverte, ecco, forse sì, da questo punto di vista nella pellicola precedente si avvertiva comunque da parte del regista una certa partecipazione, cioè comunque un sentirsi chiamato in causa anche in quanto americano, in quanto tanti aspetti, insomma, l'aspetto politico comunque non era secondario e riguardava Soderbergh in prima persona proprio perché appunto americano. Lui in questa pellicola cerca molto di più, forse anche per paura, io metto anche questa come per paura di essere, cioè voglio dire, in America ci vuole poco per essere tacciati di comunismo, insomma, viene vista ancora oggi se uno si professa vagamente di sinistra, viene guardato malissimo da chiunque, no? Dal bambino di 6 anni alla vecchia nonna di 80, e quindi insomma non nascondo che forse magari da parte di Soderbergh c'è stato un po' di timore nel appunto mettersi troppo nei panni di quello che comunque quella battaglia rappresentava e quella figura rappresentava. Però un aspetto in particolare io vorrei sottolineare, che forse è il tentativo di Soderbergh di uscire un po' da questa strada, Soderbergh fa una scelta stilistica particolare nel momento dell'esecuzione del Che. Io qui non la anticipo perché magari gli ascoltatori vogliono andarsela a vedere e vorrei che venissero presi da quella, come sono stato preso io, insomma, da quella particolare situazione, da quel particolare momento. Ed è una richiesta di empatia nei confronti di quello che comunque Guevara stava passando in quella particolare situazione nel momento della fucilazione, che comunque supera l'aspetto appunto che comunque c'è e su cui tutti soffermavi della semplice cronaca dei fatti. Quindi insomma, ripeto, anch'io forse preferisco la prima parte, cioè c'è l'argentino, però anche in questo caso non ho una forte critica da muovere nei confronti di Soderbergh per appunto essersi trattenuto per certi aspetti o comunque essersi limitato alla via più facile, alla via più semplice, insomma, per raccontare quella storia. Va bene, caro. Allora, alla prossima, un abbraccio e buon primo maggio. Buon primo maggio anche a te e a tutti gli ascoltatori, Federico. Ciao. Ci siamo allora giovedì prossimo, sempre alle 14, dalle 14 alle 15, sugli 87.900, la modulazione di frequenza con Visionari, il consueto appuntamento settimanale con il cinema. Tutte le informazioni sul sito www.ondarossa.info. Buon proseguimento.